nostro forse poco più in là. Andando a letto lo so già, la mia mente viaggerà, mi porterà fra il passato, il presente, i miei sogni, ciò che ho fatto bene in mezzo a tutti i miei sbagli, ciò cui sono arrivato, ciò cui ho rinunciato, ipotesi di azione in un futuro inoltrato. Se vale la pena di andar là non so, cercando di girarmi per star comodo, girando ripensando non mi addormenterò, e domani come al solito non mi sveglierò. Quindi adesso no, non mi coricherò, ma mi caricherò con questa fotta per l'hip hop. Scriverò, proverò, a bassa voce lo so che nel resto della casa tutti dormono. Scriverò, vibrerò e dimenticherò, almeno in questi brevi istanti, i problemi che c'ho. Girando, ripensando, non mi addormenterò. Sarà che sogno troppo, sarà che sogno troppo, sarà che se non scoppio, sarà quel che sarà, ma intanto la realtà è che non dormerà, appunto. Girando, ripensando, non mi addormenterò. Sarà che sogno troppo, sarà che sogno troppo, sarà che se non scoppio, sarà quel che sarà, ma intanto la realtà è che non dormerà, appunto. In questi giorni, cazzo, non so più che mi succede. Metto la sveglia alle 9, mi sveglio a 1 se va bene. Sarà che dormo poco, che sogno troppo. Sarà che quel che intorno ad ammollarmi se non scoppio. Sarà che svolgo azioni ripetute almeno da un anno, 23esimo anno, più che un affanno, c'ho già un cappio. Sarà che poi sulle cose che faccio non mi concentro, in più in certi giorni io nemmeno ci tento. Sarà che tutto a posto, dovrei essere contento. Non posso, io campo grazie al turbamento. Vorrei più movimento e stimolo mentale. Situazioni straordinarie, piene di un soffio vitale. Più persone fresche con cui poter parlare. Non del tempo di amici, il papà morto è banale. Con la mia donna guardo film, ora di cena alla tele. Altro che passione, ho una mutazione. Sono un ragno che ci pianta giù le ragnatele. No. Oh sì, lascia che ti faccio un po'. Girando, ripensando, non mi addormenterò. Sarà che sogno troppo, sarà che sogno troppo. Sarà che se non scoppio, sarà quel che sarà, ma intanto la realtà è che non dormerà, appunto. Girando, ripensando, non mi addormenterò. Sarà che sogno troppo, sarà che sogno troppo. Sarà che se non scoppio, sarà quel che sarà, ma intanto la realtà è che non dormerà, appunto. Ora lo sento che sfoga, e mentre il corpo getta fuori sto veleno, la mia mente mi si infuoca. Sento che viaggia di nuovo sta roba, parola su parola, la testa che qui si svuota. Sono le 5, è un'ora che realizzo una strofa sincera, mica preghiera al crocefisso. Intanto catalizzo la mia voglia di vita su un punto fisso. Da domani si cambia registro, Cristo. Tornerò a guardare la vita con più decisione, pronto allo scontro conflittuale con l'irreale posizione di chi cerca ancora una valida mediazione fra l'immobilità propria di un pensatore e la fluidità di una tempesta, un'alluvione. Se riuscirò sarà la sorte a decretare se sarò stato abbastanza forte. Per ora sento risorte le spinte propulsive vissute già più e più volte, ma adesso giunge il sonno che bussa dalle sue porte, bussa sulle tempie che paiono quasi rotte. Ora mi basta avere fatto se tre strofe corrotte e chiudo qui, ma chiudo solo per stanotte. Ma chiudo solo per stanotte. Girando, ripensando, non mi addormenterò. Sarà che sogno troppo, sarà che sogno troppo. Sarà che se non scoppio, sarà quel che sarà, ma intanto la realtà è che non dormerà, appunto. Girando, ripensando, non mi addormenterò. Sarà che sogno troppo, sarà che sogno troppo. Sarà che se non scoppio, sarà quel che sarà, ma intanto la realtà è che non dormerà, appunto.